Radio Doc, in collaborazione con History Channel. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Radio Doc, la trasmissione di Radio 24 che in collaborazione con History Channel vi presenta ogni settimana le migliori produzioni documentaristiche per la TV in una riduzione radiofonica. Questa sera vi proponiamo un documentario prodotto da AETN sul romanzo del 2000 Angeli e Demoni di Dan Brown. Da questo libro, che racconta la lotta tra scienza e religione ed è ambientato in Vaticano, il regista Ron Howard ha tratto l'omonimo film uscito in Italia e negli Stati Uniti nel maggio del 2000. Nel radiodocumentario di questa sera, insieme a storici della Chiesa ed esperti di sette segrete e di complotti, intervengono anche lo stesso Ron Howard e l'attore protagonista della pellicola, Tom Hanks. Con la pubblicazione del Codice da Vinci nel 2003, il personaggio di Robert Langdon si è conquistato un posto nella cultura popolare come uno dei più grandi investigatori di fantasia dei tempi di Sherlock Holmes. Ma come viene descritto sia nel Codice da Vinci che in Angeli e Demoni, gli esploit di Langdon alimentano ulteriormente un dibattito già acceso sulla natura della religione, le fondamenta della fede e anche l'esistenza stessa di Dio. La prima chiave per decifrare le motivazioni dietro il piano per distruggere il Vaticano si trova in un misterioso killer che, dopo aver rubato l'esplosivo, rapisce quattro cardinali famosi e li prepara per dei sacrifici rituali. Stando al romanzo, il killer è un diretto discendente di un gruppo persiano dell'undicesimo secolo, realmente esistito, noto come Ashashin o Assassini. Questi killer, su commissione, prosperano durante le crociate cristiane e danno origine al termine moderno assassino. Stando alla leggenda, i membri della setta eseguono gli ordini mentre sono sotto l'influenza dell'hashish, da qui il nome Ashashin. Molto spesso un killer assassino veniva infiltrato nelle corti di un governante musulmano. Era una cellula dormiente e poteva restare così per molti anni, facendosi strada e conquistando posizioni di potere. Finché un giorno non riceveva un messaggio che gli diceva di uccidere il governante. Ed era quello che faceva. Lo uccideva con una spada, di solito in luoghi pubblici, spesso in una moschea. L'idea era di fare dell'uccisione uno spettacolo pubblico e di instillare paura, orrore, nei cuori e nelle menti delle persone che si opponevano agli assassini. In Angeli e Demoni, il macabro lavoro dell'assassino non viene svolto in una moschea, ma nelle chiese di Roma. Il Vaticano è l'obiettivo ultimo di una bomba a orologeria unica, rubata da un laboratorio segreto, il CERN. Ma cos'è il CERN? Fondato nel 1954 da una coalizione di 12 paesi dell'Europa occidentale, il CERN è un laboratorio di fisica e un centro di ricerche che si trova a Ginevra, in Svizzera. Nei primi anni di attività dedica il proprio lavoro alla ricerca atomica, ma l'organizzazione ottiene forse il suo maggior successo nei primi anni 90, quando gli scienziati Tim Berners-Lee e Robert Caillaux inventano il World Wide Web. In anni recenti, il CERN causa un certo fermento nella comunità scientifica quando cerca di sfruttare e studiare uno degli elementi più sfuggenti e volatili dell'universo noto, l'antimateria. L'antimateria è in realtà molto comune. Sembra una cosa da fantascienza, ma viene usata molto comunemente negli ospedali per diagnosticare il cancro e cose del genere. Al CERN c'è una macchina che si chiama Alpha, dedicata a produrre una forma specifica di antimateria, l'antiidrogeno. In Angeli e Demoni, l'assassino ruba un cilindro che contiene l'antimateria. Ma è possibile che una piccola quantità di antimateria distrugga qualcosa di così vasto come Città del Vaticano? In uno scontro tra materia e antimateria, per prima cosa queste si annichiliscono, ovvero si trasformano in energia. Ciò che ne deriva sono raggi X. I raggi X riscaldano l'aria e quindi si hanno gli stessi effetti che si avrebbero con un'esplosione chimica. L'aria diventa rovente, si espande velocemente e si ha una specie di onda d'urto che può radere al suolo un edificio. In Angeli e Demoni, la letale bomba di antimateria servirà non solo a distruggere la Città del Vaticano, ma anche 200 cardinali, che sono chiusi a chiave nella Cappella Sistina, mentre prendono parte a uno dei rituali più misteriosi e riservati del mondo cattolico, il conclave. L'idea di rinchiudere i cardinali in una stanza per deliberare e arrivare a una decisione così importante non ha come unico scopo quello di concentrare le energie, ma anche quello di chiudere fuori il maligno. E questo è un aspetto della nostra storia in Angeli e Demoni, perché nel momento in cui stanno cercando di prendere questa decisione fondamentale, il male, in effetti, è entrato nel Vaticano. In Angeli e Demoni, il conclave viene convocato quando il Papa muore, in circostanze misteriose. Ma mentre l'assassinio del Papa in questa storia è inventato, altre morti misteriose avvenute nel Vaticano hanno un fondamento storico. È chiaro che il Papa è una figura che molti potrebbero avere interesse ad aggredire. Ma forse nessuna morte papale è più famosa e più circondata di mistero dell'improvvisa scomparsa di Giovanni Paolo I. Eletto nell'agosto del 1978, muore appena 33 giorni dopo. La versione ufficiale che è stata diffusa perché non potevano dire allora che era stato trovato morto da una suora era che fosse stato trovato dal suo segretario personale. Tuttavia, hanno iniziato a circolare sospetti e voci che fosse stato avvelenato. Perché avrebbero dovuto avvelenarlo? Un'ipotesi è che stava cercando di liberare il Vaticano dalle influenze massoniche e aveva una lista di membri della massoneria che erano preti in Vaticano. È stato detto che sia stato avvelenato proprio con l'aiuto dei massoni all'interno del Vaticano. Il Vaticano, ovviamente, ha concluso che era morto di infarto. La sua morte resterà per sempre un mistero, come molte altre cose successe in Vaticano, perché sono loro a condurre le indagini. E non si può avere accesso a qualunque scoperta facciano gli investigatori. Quindi tutto il resto sono voci. La città del Vaticano è uno stato sovrano che si estende per circa 44 ettari nel cuore di Roma. Ha una popolazione di 900 abitanti e da secoli viene protetta da due forze di sicurezza indipendenti. La prima si chiama Corpo della Gendarmeria o Polizia Vaticana, che si occupa del controllo del confine, del traffico e delle indagini criminali. La seconda è una forza d'élite che si chiama Guardia Svizzera. Le guardie svizzere si addestrano in Svizzera dal XV secolo e sono le guardie del corpo personali del Papa. Ma c'è un altro compito che le forze di sicurezza papali condividono, e cioè assicurarsi che ciò che accade in Vaticano non varchi quelle mura. In Angeli e Demoni, la lotta del Vaticano per mantenere privacy, indipendenza e influenza spinge la Chiesa Cattolica Romana nel reticolo di un attacco terroristico. We must defend ourselves. E con il mondo che sta a guardare, sorgono delle domande cruciali. Chi sono i veri amici della Chiesa? E chi sono i suoi nemici? E quando ha avuto origine la lotta fra scienza e fede? Sia nel romanzo che nella versione cinematografica di Angeli e Demoni, si pensa che i membri di un culto segreto di scienziati e intellettuali stiano progettando una cospirazione letale contro la Chiesa Cattolica Romana. L'attacco è motivato, presumibilmente, dalla vendetta per la passata condotta intollerante della Chiesa, diretta contro coloro che osano mettere in dubbio la fede religiosa. Angeli e Demoni si svolge completamente nel presente, ma ci sono anche rimandi al passato. Echi del passato continuano a influenzare la crisi in atto oggi. E questo è un altro degli aspetti interessanti della continua tensione tra scienza e religione. Nel caso di Angeli e Demoni si vede lo scontro tra due titani, la scienza e la religione. Quale dei due ha ragione? Ma quando ha avuto origine questo conflitto tra religione e scienza? E ci sono ferite così profonde da portare al tipo di piano diabolico descritto nella storia di Dan Brown? A metà del 1500, in risposta a quelle che molti pensano siano un attacco alla religione, le riforme protestanti, la Chiesa Cattolica Romana stringe la propria morsa sui fedeli, con l'Inquisizione. Si spera che questi corpi investigativi, composti in gran parte da preti ed ecclesiastici, riescano a eliminare l'eresia e quindi assicurino la salvezza delle anime di Dio. Anche se non tutti questi tribunali sono sotto la giurisdizione del Vaticano, il periodo dell'Inquisizione è spesso inquinato da corruzione e ipocrisia e macchiato da torture e omicidi. Se si veniva a sapere che parlavi contro la Chiesa, ti potevano succedere diverse cose. Se eri fortunato, venivi impiccato, ma non amavano molto questo metodo perché era troppo veloce. Quindi optavano per il rogo. A volte un rogo lento. Ti tiravano via dal rogo per circa mezz'ora e poi ti ci rimettevano. Era questo ciò che ti aspettava. Radio Doc. Proseguiamo con la seconda parte del radiodocumentario prodotto da AETN che vi proponiamo in collaborazione con History Channel. Secondo uno dei produttori del film Angeli e Demoni, William M. Connor, la bravura di Dan Brown sta proprio nella capacità di mescolare sapientemente verità storiche con finzioni romanzesche, facendo in modo che le prime rendano credibili le seconde. Su questo meccanismo ruota anche l'inserimento di Galileo Galilei nella storia di Angeli e Demoni. Il fatto storico della biura dello scienziato diventa il principio della trama romanzesca che inventa gli Illuminati, un gruppo di scienziati e devoti della ragione che vogliono combattere la Chiesa Cattolica. Galileo Galilei, fisico, matematico, astronomo e filosofo italiano d'avanguardia. È noto come il padre della scienza moderna. Ispirato dalle opere di Nicola Copernico, presto rivolge il proprio sguardo alle stelle e trova le prove che minacciano uno degli insegnamenti più importanti della Chiesa. Galileo teorizza addirittura che è la Terra a girare intorno al Sole. E questo è un anatema, una totale eresia per la Chiesa. Il problema che la Chiesa aveva con Galileo era essenzialmente il fatto che aveva usato una tecnologia, un'autorità rivale, per spiegare l'universo. Galileo smette di usare la religione e alla Chiesa Cattolica questo non piace. L'Inquisizione, spinta da Urbano VIII, lo convoca. Con l'Inquisizione non si può discutere, non puoi convincere i giudici che hai ragione. In pratica, l'Inquisizione ha già deciso che sei colpevole e così a Galileo, dopo 4 udienze, viene data l'opportunità di ritrattare, cosa che lui fa. E così abiura le sue idee sul sistema copernicano e ritratta pubblicamente una cosa di cui ha parlato per 3 decenni. Galileo muore mentre è ancora agli arresti domiciliari l'8 gennaio 1642, all'età di 77 anni. La morte di Galileo lo rende un martire per la causa del pensiero scientifico. Il dissenso e la fatica che Galileo ha vissuto gioca un ruolo molto importante nel nostro film, un ruolo cruciale. E nasce tutto da qualcosa che sappiamo essere vera: l'oppressione della Chiesa contro coloro che guardavano oltre i rigidi dogmi del presente. Ma, come viene suggerito in Angeli e Demoni, Galileo diventa davvero l'ispirazione per una serie di culti letali i cui membri non si fermano davanti a niente per vendicarlo? Radicali che si dedicano al concetto che la scienza sia l'unico vero Dio? In Angeli e Demoni, le prove suggeriscono che l'attacco omicida contro la Chiesa Cattolica viene perpetrato da un'antica società segreta. Si chiamano gli Illuminati e sono dediti alla distruzione della Chiesa. Ma un gruppo del genere esiste davvero? E se sì, sono davvero rimasti nascosti per più di 400 anni? Pensiamo al significato della parola Illuminati. Si possono trovare gli Illuminati in diversi tipi di società segrete, quasi culti. Nelle religioni pagane, per esempio, il culto dionisiaco era un culto segreto e uno doveva essere iniziato ai misteri. Un tipo di Illuminati si trova anche nei circoli cattolici, con lo gnosticismo, che sostiene che si può conoscere davvero la verità dell'universo solo se si è illuminati. Quindi gli Illuminati descritti in Angeli e Demoni di Dan Brown si riferiscono in realtà a coloro che sono illuminati dalla conoscenza per conoscere i segreti dell'universo. Stando al bestseller di Dan Brown, la repressione e il duro trattamento con cui la Chiesa ha trattato il caso Galileo sono il motivo che spinge molti scienziati, intellettuali e filosofi a costituire gli Illuminati. Viene anche suggerito che lo stesso Galileo fosse uno dei membri fondatori. Chi sono gli Illuminati? Ci sono prove concrete che un tale gruppo esista? Gli Illuminati sono stati fondati nel 1776 da Adam Weishaupt, che era un docente di diritto canonico in una università bavarese. L'ordine voleva rendere le persone perfette, così che potessero avere un'influenza sul mondo esterno e migliorarlo. Era questo il suo scopo. Non era specificatamente un gruppo religioso, era una società segreta, ma aveva delle motivazioni politiche. È il classico scontro tra protagonista e antagonista. Questo è un aspetto centrale in Angeli e Demoni. They've come for their revenge. Alcuni esperti sostengono che gli ex membri dell'Ordine degli Illuminati sopravvivono clandestinamente. Ma se è così, dove sono andati? Si sono infiltrati in un'altra e forse più potente organizzazione segreta, anch'essa avvolta nel mistero? O forse invece si tratta di un'organizzazione che si trova proprio davanti ai nostri occhi? In Angeli e Demoni ci sono diversi gruppi di persone che usano codici per comunicare in segreto riguardo ad azioni nefande, come assassinare le persone. Le persone sono attirate dai segreti, vogliono scoprirne il significato. E i codici, che sono un metodo per comunicare i segreti, giocano un ruolo significativo nella vita delle persone. È questo, secondo me, il fascino dei codici e dei libri come Angeli e Demoni. Alcune persone credono che, seguendo gli Illuminati, si possa arrivare ai massoni. Alcuni credono che l'ordine sia morto e rinato due o tre volte. Quando si inizia a parlare di cospirazioni del passato, potete immaginare quante svolte hanno avuto luogo senza che siano state registrate. E questo ci conferma che tutto accade dietro il velo della segretezza. Tutta questa mitologia riguardo al fatto che i massoni cospirassero, avessero poteri segreti, ha origine nel XVIII secolo, con l'impatto della Rivoluzione francese, quando i nemici della Rivoluzione hanno iniziato a sostenere che questa era stata un risultato di una cospirazione nata tra i capi dell'Illuminismo e i massoni. Nella sua corsa contro il tempo, Robert Langdon deve decifrare una serie di indizi elaborati e nascosti per poter trovare quattro cardinali rapiti e una bomba a orologeria che potrebbe distruggere il Vaticano. Alcuni sono indizi con parole, sotto forma di indovinelli, poemi e crittogrammi, ma altri sono più geografici e contengono codici e simboli incastonati nell'architettura, in sculture e dipinti, ciascuno dei quali si trova lungo il cosiddetto cammino dell'illuminazione, usato dagli Illuminati per mettere alla prova i nuovi membri. Ma c'è qualche verità nell'idea che Roma e il Vaticano siano seminati di tali indizi? E che questi indizi sono stati apparentemente posti dall'architetto più famoso della città, Gian Lorenzo Bernini? C'è un'altra zona all'interno del Vaticano che è così misteriosa che il nome stesso evoca l'idea di un luogo proibito. L'archivio segreto Vaticano. È qui che, sia nel libro che nella versione cinematografica di Angeli e Demoni, Robert Langdon trova gli indizi che spera lo aiuteranno a risolvere il mistero. Ma cosa c'è nell'archivio segreto Vaticano? E perché l'accesso a questi 83 chilometri di scaffali viene così limitato dalla Chiesa Cattolica Romana? Nel 1978, Papa Giovanni Paolo II viene eletto al soglio pontificio della Chiesa Cattolica Romana. Questo Papa all'avanguardia riesamina le questioni principali che per secoli hanno trascinato il Vaticano in controversie senza fine. Papa Giovanni Paolo II ha offerto una specie di ramo d'ulivo alla comunità scientifica, dicendo: riapriamo il caso e valutiamo gli errori che abbiamo già ammesso di avere commesso. In queste parole possiamo trovare un'armonia tra scienza e fede. Io credo che ora il Vaticano sia quantomeno interessato ad ascoltare quali siano i limiti della scienza e quali siano le sue possibilità. Tommaso d'Aquino ha detto: servono sia la fede che la ragione. È la confluenza di entrambe che permette di conoscere la verità e Dio. Ha detto che non sono in competizione, che non entreranno mai in conflitto. Ha detto che abbiamo bisogno sia di scienza che di fede. Fede e ragione insieme. Vi segnaliamo che la versione integrale di questo documentario andrà in onda lunedì 5 ottobre su History Channel alle 14:15. Radio Doc vi dà appuntamento a domenica prossima. Buonanotte.